Pollyanna di Eleanor Porter. Capitolo primo. La signorina Polly. Quella mattina di giugno la signorina Polly Harrington entrò con molta fretta in cucina. Di solito i suoi movimenti non erano mai precipitosi, anzi il suo vanto maggiore era di conservare la calma in ogni occasione, ma quel giorno, invece, la signorina Polly aveva davvero fretta. Nancy, che in quel momento stava rigovernando, la guardò sorpresa. Anche se era al suo servizio soltanto da 2 mesi, aveva già capito che la signorina Polly non era solita agitarsi. Nancy! Sì, signorina, rispose Nancy di buon umore, sempre continuando ad asciugare il piatto che aveva in mano. Nancy! Ripeté la signorina Polly con un tono di voce che si era fatto duro. Quando ti rivolgo la parola, desidero che tu smetta di fare quello che stai facendo e prestare attenzione a quanto ti dico. Nancy arrossì. Posò all'istante il piatto avvolto nello strofinaccio, che per poco non le cadde di mano, cosa che la imbarazzò ancora di più. Sì, signora, ho capito, signora, farfugliò riprendendo in mano il piatto e girandosi in fretta. Cercavo di sbrigarmi perché stamattina mi aveva detto di non metterci troppo tempo a riordinare la cucina. La signorina Polly si fece ancora più severa. Basta, Nancy, non ti ho chiesto spiegazioni, voglio solo che tu stia ad ascoltarmi. Sì, signora. Nancy represse un sospiro, chiedendosi se sarebbe mai riuscita ad accontentarla. Non era mai stata a servizio, ma la malattia della madre, che era rimasta vedova con 3 figli oltre a lei, l'aveva obbligata a cercarsi un lavoro per dare un aiuto in casa. Era stata così contenta quando aveva trovato un posto nella cucina della grande casa sulla collina. Nancy veniva dalla contrada The Corners, a 6 miglia da lì, e conosceva la signorina Polly Harrington soltanto come proprietaria della vecchia tenuta Harrington e come erede di una delle più ricche famiglie della zona. Era quanto sapeva 2 mesi prima. Adesso aveva capito che la signorina Polly era una donna severa, dallo sguardo duro, che si accigliava se una posata cadeva per terra o se una porta sbatteva e che non sorrideva mai. Quando hai finito il lavoro di questa mattina, le stava dicendo la signorina Polly, vai su, sgombra la stanzetta del sottotetto e prepara il letto. Naturalmente farai pulizia nella stanza dopo averla liberata dei bauli e degli scatoloni. Sì, signorina, e dove devo mettere tutta la roba? Nel sottotetto che dà sul giardino. Un attimo di esitazione, quindi la signorina Polly proseguì. Tanto vale che te lo dica subito, Nancy. Mia nipote Pollyanna Whittier verrà a stare con me. A 11 anni, dormirà nella stanza che ti ho detto. Una bambina verrà qui, signorina Harrington? Oh, che bello! Esclamò Nancy, ricordando le sue sorelline e la ventata di aria fresca che portavano in casa. Bello? Beh, non mi sembra proprio l'espressione più adatta, disse la signorina Polly asciutta. In ogni modo ho intenzione di fare il possibile perché tutto vada per il meglio. Sono una persona per bene, voglio sperare, e so quali sono i miei doveri. Nancy arrossì violentemente. Certo, signorina, pensavo che una ragazzina in questa casa avrebbe portato un po' di allegria, farfugliò. Grazie, disse la signorina Polly con durezza. Non posso dire però che ne sentissi davvero tanto bisogno. Ma, azzardò Nancy, e naturalmente lei sarà contenta di tenere con sé la bambina di sua sorella. Vagamente sentiva di dovere in qualche modo preparare a quella piccola sconosciuta un'atmosfera più accogliente. La signorina Polly si irrigidì ancor più. Veramente, Nancy, non vedo come il fatto di aver avuto una sorella tanto sciocca da finire per sposarsi e mettere al mondo altri bambini, quando già ce ne sono tanti al mondo, possa rendermi particolarmente felice di allevarne uno io stessa. A ogni modo, come ho detto, spero di conoscere il mio dovere. Mi raccomando di pulire bene negli angoli, Nancy, concluse poi bruscamente nel lasciare la stanza. Sì, signorina, disse Nancy, tornando alla brocca che nel frattempo si era asciugata da sola. Rientrata in camera sua, la signorina Polly riprese in mano la lettera che aveva ricevuto 2 giorni prima da una lontana città dell'Ovest e che era stata per lei una sorpresa estremamente sgradita. La lettera era indirizzata a signorina Polly Harrington, Beldingsville, Vermont, e diceva: Gentile signorina, è con grande dolore di doverla informare della morte del reverendo John Whittier, avvenuta 2 settimane fa, e che sua figlia, una ragazzina di 11 anni, a parte alcuni libri, non ha lasciato altro, in quanto, come lei certamente saprà, era il pastore di questa piccola parrocchia e viveva di uno stipendio molto modesto. Se non sbaglio, aveva sposato la sua defunta sorella, ma mi aveva fatto intendere che i rapporti fra le due famiglie non fossero troppo cordiali. Egli riteneva, tuttavia, che per amore di sua sorella lei avrebbe desiderato tenere la bambina presso di sé per crescerla nell'est. Ed è questo il motivo per cui le scrivo. Quando riceverà la mia lettera, la bambina sarà già pronta a trasferirsi e se lei accettasse di accoglierla, la prego di comunicarmelo subito in modo che io possa farla partire immediatamente, dal momento che qui c'è una certa persona che tra breve si sposterà verso est con la moglie. Prenderebbero con loro la bambina fino a Boston, dove la farebbero salire sul treno per Beldingsville. Naturalmente le verrà comunicato in quale giorno e su quale treno viaggerà la piccola Pollyanna, con la speranza di avere presto una sua risposta affermativa. Le porgo i miei rispettosi saluti, Jeremiah O. White. Con la fronte sempre aggrottata, la signorina Polly ripiegò la lettera e la infilò di nuovo nella busta. Aveva già risposto il giorno prima, scrivendo che naturalmente avrebbe accolto la bambina. Per quanto le fosse poco gradito, sapeva bene quale fosse il suo dovere. Mentre se ne stava seduta con la lettera in mano, tornava con il pensiero a sua sorella Jenny, la madre di quella bambina, e al momento in cui Jenny, appena ventenne, malgrado l'opposizione della famiglia, era riuscita a sposare il reverendo Whittier. Anche un altro uomo estremamente benestante l'aveva chiesta in moglie e la famiglia l'avrebbe senz'altro preferito al pastore, ma non Jenny. Il primo aveva a suo favore qualche anno in più e molto denaro, mentre il ministro di Dio aveva soltanto la testa piena di ideali giovanili, tanto entusiasmo e un cuore pieno d'amore. Jenny aveva preferito queste ultime qualità come fosse era naturale. Così aveva sposato il reverendo Whittier e se n'era andata con lui al sud in qualità di moglie del pastore di una missione locale. Era stato allora che si era verificata la rottura. La signorina Polly se lo ricordava bene, anche se all'epoca aveva solo 15 anni, essendo la più giovane delle tre sorelle. La famiglia aveva via via diradato i contatti con la moglie del missionario. Jenny, in realtà, aveva continuato a scrivere per un certo tempo e aveva anche informato di aver chiamato la sua bambina Pollyanna, dal nome delle sue due sorelle, Polly e Anna. Gli altri bambini purtroppo erano tutti morti. Quella era stata l'ultima volta che Jenny aveva dato notizie di sé. Poi, qualche anno più tardi, si era saputo della sua morte, annunciata in una lettera breve e straziante che il reverendo Whittier stesso aveva inviato da un piccolo centro dell'Ovest. Nel frattempo, la vita nella grande casa in cima alla collina non si era fermata. Fissando lo sguardo sulla valle, la signorina Polly ripensava ai cambiamenti che gli ultimi 25 anni avevano portato. Lei stessa aveva 40 anni ormai ed era sola al mondo. Papà, mamma e le sorelle erano morti e da vari anni era l'unica padrona della casa e di quanto il padre aveva lasciato. C'era gente che l'aveva compatita per quella vita di solitudine e che l'aveva esortata a trovare un'amica o qualcuno che vivesse con lei per farle compagnia. Ma lei non aveva gradito né la loro preoccupazione né i loro consigli. Non si sentiva sola, diceva. Le piaceva vivere così, preferiva la tranquillità. Ma ora. La signorina Polly si alzò con un'espressione pensierosa e le labbra strette. Era contenta, naturalmente, di essere una persona perbene, che non soltanto conosceva il suo dovere, ma che era anche dotata di carattere sufficiente per dimostrarlo, però. Pollyanna, pensò, che nome ridicolo. Capitolo 2. Nancy e il vecchio Tom. Nella piccola stanza, nel sottotetto, Nancy spazzò e strofinò con vigore, dedicando un'attenzione speciale agli angoli. In realtà c'erano momenti in cui l'energia che metteva nel fare pulizia tradiva più il bisogno di sfogare i suoi sentimenti che non l'impegno per eliminare lo sporco. Nonostante la sua obbedienza alla padrona, Nancy non era una santa. Oh, vorrei proprio, se potessi, dare una bella strofinata negli angoli della sua anima, borbottava, sottolineando le parole con violenti colpi di spazzolone, come se avesse voluto infilzare qualcuno. Che bisogno c'è di bambini? Questo pensiero dovrebbe essere ripulito. Che idea, cacciare quella povera creatura quassù, in questo buco, caldo, torrido d'estate e gelo d'inverno, quando c'è un'intera casa piena di stanze finché si vuole. Che bisogno c'è di bambini, davvero? Sibilò Nancy, strizzando lo strofinaccio con tanta forza da farsi male alle dita, come se fossero loro a essere del tutto inutili e non qualcun altro. Per un po' continuò a lavorare in silenzio, poi, quando ebbe finito, guardò con disgusto la camera spoglia. «Ecco fatto», disse con un sospiro, «per quanto mi riguarda, almeno. Certo, ora non c'è più sporcizia, ma non c'è neanche nient'altro. Oh, povera bambina, bel posto per ospitare una creatura tanto sola e piena di nostalgia», concluse uscendo e sbattendosi la porta alle spalle. «Oh, povera me», esclamò mordendosi le labbra. Ma poi, rabbiosa, pensò: Beh, non me ne importa niente. Anzi, spero proprio che abbia sentito il colpo. Sì, lo spero proprio. Quel pomeriggio Nancy trovò un po' di tempo per andare in giardino e fare qualche domanda a Tom, al vecchio Tom, che per molti anni aveva strappato erbacce e vangato i sentieri del giardino. Tom? Incominciò Nancy gettando un veloce sguardo alle spalle per assicurarsi di non essere vista. Sapevi che una ragazzina sta per arrivare qui per vivere con la signorina Polly? Una che? Disse l'anziano giardiniere raddrizzando la schiena con una certa difficoltà. Una bambina che vivrà con la signorina Polly? Vuoi scherzare? Borbottò Tom incredulo. Perché non mi vieni a dire che domani il sole tramonterà a oriente? Ma è la verità, me l'ha detto lei stessa, disse Nancy. È sua nipote, ha 11 anni. Il volto dell'uomo mutò espressione. Ah, è così, mormorò, e all'improvviso una nuova luce gli rischiarò gli occhi stanchi. È forse. Ma non può non essere la piccola della signorina Jenny? Nessun'altra di loro era sposata. Certo, Nancy, deve essere la figlia di Jenny. Oh, sia benedetto il cielo, chi avrebbe mai detto che avrei visto anche questo? Chi era la signorina Jenny? Oh, era un angelo caduto dal cielo, disse Tom con convinzione. Ma per il vecchio padrone e sua moglie era solo la figlia maggiore. Aveva appena 20 anni quando si sposò e andò via da qui molti anni fa. Le sono morti tutti i bambini che aveva avuto, mi è stato riferito, tranne l'ultimo, e deve essere proprio la piccola che sta per arrivare. Ha 11 anni. Oh, sì, deve essere quella l'età, disse Tom. E viene messa a dormire nel sottotetto. Dovrebbe vergognarsi quella, disse Nancy, lanciando un'altra occhiata verso casa. Il vecchio Tom aggrottò la fronte. Poi uno strano sorriso gli si dipinse sul volto. Ah, mi chiedo che cosa farà la signorina Polly con una bambina in casa, disse. Io invece mi chiedo che cosa ci farà una bambina con la signorina Polly in casa, ribatté sarcastica Nancy. Il vecchio fece una risata. Temo che tu non voglia troppo bene alla signorina Polly, disse malizioso. Come se ci fosse qualcuno che possa amarla, protestò Nancy sdegnata. Il vecchio Tom sorrise un po' a disagio, quindi, curvandosi di nuovo, riprese il suo lavoro. Forse non sai nulla della storia d'amore della signorina Polly, disse Tom a voce bassa. Storia d'amore? Lei? No, penso che nessuno ne abbia mai saputo nulla. Oh, sì, si sapeva, disse il vecchio. Era uno che viveva in questa città, tra l'altro. E chi era? Oh, non te lo dico, non penso sia giusto. Il vecchio si raddrizzò. Negli occhi azzurri che ora guardavano la casa c'erano la lealtà e l'orgoglio del vecchio servitore verso la famiglia che aveva servito e amato per tanti anni. Ma non mi sembra possibile. Lei amare qualcuno? Esclamò ancora incredula Nancy. Tom scuoteva la testa. Non hai conosciuto la signorina Polly come l'ho conosciuta io, disse. Era veramente bella e lo sarebbe ancora se solo volesse. Bella? La signorina Polly? Sì, se non si tenesse i capelli raccolti così stretti, ma li lasciasse sciolti un po' in disordine come una volta e se portasse ancora quei graziosi capellini e quegli abiti di pizzo con certi fronzoli bianchi, vedresti com'è carina. La signorina Polly non è affatto vecchia, Nancy. Non è vecchia? Beh, se non lo è, riesce benissimo a sembrarlo. Sì, ci riesce proprio bene, disse Nancy ridacchiando. Lo so. Tutto è cominciato all'epoca della storia con quel suo innamorato, disse Tom. Poi è come se per anni avesse continuato a rimuginare certi ricordi, diventando sempre più acida e scostante. È proprio così, disse Nancy tristemente. Non c'è modo di accontentarla per quanto ci si possa sforzare. Ah, non rimarrei qui se non fosse per il salario che serve ai miei a casa, ma prima o poi farò fagotto e quando mi deciderò sarà un gran bel giorno. Tom scosse la testa. Lo so, l'ho provato anch'io. È naturale risentirsene, ma c'è di peggio, credimi, c'è di peggio, disse, e poi si rimise di nuovo, schiena curva, a zappare il viottolo. Nancy! Era una voce aspra a chiamare. Sì, signorina, rispose spaventata Nancy, correndo subito verso casa. Capitolo 3. L'arrivo di Pollyanna. Secondo gli accordi, arrivò il telegramma annunciando l'arrivo di Pollyanna a Beldingsville per il giorno seguente, 25 giugno, alle 4 del pomeriggio. La signorina Polly lo lesse, aggrottò la fronte e salì le scale fino al sottotetto e mentre si guardava intorno si rabbuiò di nuovo. La stanzetta conteneva un lettuccio rifatto accuratamente, due sedie con uno schienale rigido, un lavabo, un comò senza specchiera e un tavolino. Niente tende alle finestre, né quadri alle pareti. Per tutta la giornata il sole aveva picchiato sui tetti e la cameretta sembrava un forno. Siccome non c'era la rete di protezione contro gli insetti, i vetri non erano stati aperti, ma un moscone doveva aver trovato un modo per entrare, ronzava rabbiosamente contro una finestra, cercando con insistenza una via d'uscita. La signorina Polly catturò l'insetto e lo buttò fuori dalla finestra, aprendola appena. Raddrizzò una sedia, aggrottò di nuovo la fronte e quindi lasciò la stanza. Nancy, disse poco dopo affacciandosi alla porta della cucina, ho trovato un moscone in camera di Pollyanna. La finestra deve essere rimasta aperta. Ho ordinato la rete di protezione per entrambe le finestre, ma finché non sarà arrivata, mi aspetto che tu stia bene attenta a tenere chiusi i vetri. Mia nipote arriverà domani pomeriggio alle 4. Andrai a prenderla alla stazione. Timothy ti accompagnerà con il calessino. Il telegramma dice cappelli chiari, vestito di mussola, quadretti rossi e cappello di paglia. È tutto quello che so, ma penso ti possa bastare. Sì, signorina, ma e lei? La signorina Polly capì benissimo il significato di quella pausa, perché si fece seria e disse bruscamente: No, non verrò, non è necessario, credo. È tutto. E senza aggiungere altro, se ne andò. Evidentemente i preparativi della signorina Polly per la sistemazione e l'accoglienza della nipote erano conclusi. In cucina Nancy calcò con rabbia il ferro da stiro sullo strofinaccio per asciugare i piatti che doveva stirare. Capelli chiari, vestito di mussola, quadretti rossi e cappello di paglia. È tutto quello che sa dire. Io mi vergognerei, sì, mi vergognerei di accogliere così la mia unica nipote che sta arrivando dall'altra parte del continente. Alle 4:20 precise del giorno successivo, Timothy e Nancy partirono per andare ad accogliere alla stazione l'ospite in arrivo. Timothy era il figlio di Tom. Ogni tanto nella zona si diceva che se il vecchio Tom era il braccio destro della signorina Polly, Timothy era sicuramente il sinistro. Era un bel ragazzo, con un buon carattere, e anche se Nancy era da poco a servizio in casa della signorina Harrington, i due erano già diventati ottimi amici. Quel giorno però Nancy era troppo presa dalla sua missione per essere loquace come al solito e quindi arrivarono quasi in silenzio in stazione dove la ragazza scese dal calesse per andare al binario. Capelli chiari, vestito di mussola a quadretti e cappello di paglia, si ripeteva e continuava pure a domandarsi quale tipo di bambina sarebbe stata questa Pollyanna. Spero per lei che sia una ragazzina tranquilla e ragionevole, che non lasci cadere coltelli e non sbatta le porte, disse con aria preoccupata a Timothy che intanto l'aveva raggiunta. Beh, se non lo è, Dio solo sa quello che potrà capitare, disse il ragazzo con un'espressione maliziosa. Te la immagini la signorina Polly alle prese con una bambina fracassona? Ah, ecco il fischio del treno. Oh, Timothy, non è stata meschina a mandarmi qui al suo posto? Chiese improvvisamente apprensiva Nancy. Voltandosi e correndo via in fretta verso il posto più adatto per controllare i passeggeri che scendevano in quella piccola stazione. Poco dopo scorse un'esile ragazzina vestita di mussola a quadretti e con due belle trecce bionde che le pendevano sulle spalle. Sotto il cappello di paglia spuntava un visetto pieno di lentiggini che guardava a destra e a sinistra, tutto teso nella ricerca di qualcuno. Nancy capì subito che era quella la bambina attesa. Ma le gambe le tremavano a tal punto che dovette aspettare un po' prima di andarle incontro. Quando infine Nancy si avvicinò a lei, la ragazzina si trovava ancora lì tutta sola. Sei Pollyanna? Le chiese incerta e l'istante dopo si trovò mezzo soffocata nella stretta di due piccole braccia. Oh, sono così contenta, proprio contenta di vederti! esclamò una voce affettuosa nel suo orecchio. Certo che sono Pollyanna e sono tanto, tanto contenta che tu sia venuta a prendermi. Speravo proprio che venissi. Davvero? Farfugliò Nancy incerta, chiedendosi con stupore come Pollyanna potesse conoscerla e aver desiderato incontrarla. Davvero? Ripeté cercando di raddrizzarsi il cappello. Certo, per tutto il viaggio non ho fatto che domandarmi come saresti stata, disse la ragazzina ad alta voce, saltellando sulle punte ed esaminando dalla testa ai piedi un'imbarazzatissima Nancy. E adesso lo so, e sono contenta che tu sia proprio come sei. Nancy accolse con sollievo l'arrivo di Timothy, perché le parole di Pollyanna le avevano creato un grande imbarazzo. Questo è Timothy. Hai un baule? Disse balbettando. Sì, certo che ce l'ho, disse Pollyanna con tono di importanza. Ed è anche tutto nuovo. Me l'hanno comperato le signore dell'assistenza. Non ti pare che sia stato molto carino da parte loro? Qui nella borsa ho una cosa. Il signor Gray mi ha detto che è uno scontrino e che dovevo dartelo al mio arrivo per ritirare il baule. Il signor Gray e il marito della signora Gray sono cugini della moglie del diacono Carr. Ho fatto il viaggio con loro, non hai idea di quanto siano gentili. Ah, eccolo, disse mostrando lo scontrino dopo averlo avvistato per un po' nella borsa che portava con sé. Nancy tirò un profondo respiro. Sentiva che dopo quel lungo discorso qualcuno doveva pur prendere fiato. Cercò di captare lo sguardo di Timothy, il quale di proposito guardava da un'altra parte. Alla fine i tre partirono con il baule di Pollyanna sistemato dietro e con la bambina comodamente accoccolata fra Nancy e Timothy. In tutto questo tempo la ragazzina non aveva smesso di fare una valanga di domande e commenti finché Nancy, del tutto stordita, si trovò incapace di tenerle testa. Eccoci, non è bello, è lontano, spero di sì, mi piace tanto andare in calesse, disse Pollyanna non appena le ruote cominciarono a muoversi. Naturalmente, anche se è vicino, non importa, sarò contenta di arrivare prima. Che bella strada, lo sapevo che era un po' un bel posto, papà mi ha raccontato. La bambina si interruppe e la sua voce era stata bloccata da un singhiozzo. Nancy, nel guardarla preoccupata, vide che il piccolo mento le tremava e che gli occhi le si erano riempiti di lacrime. Un attimo dopo, però, la piccola crisi era già passata e la bambina riprese dicendo: Papà mi ha raccontato tutto, ricordava benissimo e avrei dovuto spiegarlo prima. La signora Gray mi aveva raccomandato di farlo subito. A proposito di questo vestito a quadretti rossi, capisci, e del motivo per cui non sono vestita a lutto. Ha detto che l'avreste trovato strano, ma il fatto è che negli ultimi pacchi arrivati alla parrocchia non c'era niente di nero, a parte una giacca di velluto che, secondo la moglie del diacono Carr, non era assolutamente adatta a me, senza contare che non era priva di macchie ed era tutta lisa nei gomiti e in altre parti. Alcune signore volevano comperarmi un vestito e un cappello nero, ma altre pensavano che fosse meglio impegnare quei soldi per il tappeto da mettere in chiesa. La signora White diceva che era comunque meglio che non fossi vestita a lutto, in quanto non le piacevano i bambini tutti di nero. Naturalmente i bambini le piacciono, ma non con abiti neri. Ma sono sicura che va bene così come sei, disse Nancy, sentendosi sempre più a disagio. Oh, sono contenta che la pensi così, anch'io sono d'accordo, disse Pollyanna con la voce che le tremava di nuovo. Sarebbe stato molto più difficile rimanere contenta indossando sempre indumenti neri. Contenta? Esclamò sorpresa Nancy, sfruttando una pausa nel discorso di Pollyanna. Sì, contenta che papà è andato in cielo per stare con la mamma e tutti gli altri, capisci? Mi ha detto che devo essere sempre contenta. Ma è stato per me molto difficile riuscirci anche se portavo un abito a quadretti rossi, perché sentivo tanto la sua mancanza e non potevo fare a meno di pensare che avrebbe dovuto rimanere ancora con me, visto che la mamma e gli altri sono in compagnia di Dio e degli angeli, mentre io non avevo che le signore dell'assistenza. Ma adesso sono sicura che sarà tutto più facile perché ho te, zia Polly. Non immagini neanche come io sia felice. La simpatia mista a compassione che Nancy aveva provato per la piccola, si mutò improvvisamente in terrore. Oh, oh, hai fatto uno sbaglio terribile, balbettò. Io sono soltanto Nancy, non sono io tua zia Polly. Tu non sei mia zia? Domandò la ragazzina disorientata. No, Sono soltanto Nancy. Non avrei mai pensato che mi avresti scambiata per lei. Non ci assomigliamo per niente. Timothy intanto ridacchiava tra sé. Nancy era troppo sottosopra per rispondere alla maliziosa occhiata che le aveva lanciato. Ma allora chi sei? Chiese Pollyanna, sempre più disorientata. Non mi sembri affatto una signora dell'assistenza. Questa volta Timothy non poté fare a meno di scoppiare in una risata. Io sono Nancy, la donna di servizio. Faccio i lavori in casa, a parte il bucato e lo stiro di fino. Quelli li fa la signora Durgin. Ma la zia Polly c'è? Chiese la bambina con ansia. Oh, puoi star sicura che c'è, si intromise questa volta Timothy. Pollyanna sembrò sollevata. Oh, va tutto bene allora. Ci fu un momento di silenzio, quindi la bambina continuò allegramente. Ma la sai una cosa? Non mi dispiace che non sia venuta a prendermi la zia, perché così mi resta ancora il piacere di fare la sua conoscenza. Intanto ho già avuto quello di incontrare te. Nancy diventò rossa e Timothy le rivolse un'occhiata ironica. Un bel complimento davvero. Perché non ringrazi la signorina? Io, protestò Nancy, io pensavo alla signorina Polly. Pollyanna sospirò, tranquillizzata. Anch'io stavo pensando a lei. Sono così curiosa. È la mia unica zia, sapete, e per tanto tempo non sapevo neanche che esistesse, finché non me ne ha parlato papà. Mi ha detto che viveva in una casa enorme e bellissima in cima a una collina. Proprio così. La si vede anche da qua, adesso, disse Nancy. È quella grande casa lassù, bianca, con le imposte verdi. Oh, che bella! Quanti alberi! E che bei prati tutti intorno! Non ho mai visto tanta erba in una volta sola. È ricca, mia zia Polly, Nancy. Sì, signorina. Oh, sono proprio contenta. Deve essere magnifico avere tanti soldi. Non ho mai conosciuto nessuno con tanti soldi. Soltanto i White sono abbastanza ricchi. Hanno tappeti in ogni stanza e mangiano il gelato tutte le domeniche. Dalla zia Polly c'è il gelato la domenica. Nancy scosse il capo e fece una smorfia. Poi lanciò un'occhiata maliziosa a Timothy e rispose: No, signorina, non credo che a tua zia piaccia il gelato. Io almeno non gliel'ho mai visto in tavola. Dal volto di Pollyanna scomparve l'allegria. Oh, davvero? Che peccato. Non capisco come possa non piacere il gelato. Ah, beh, ad ogni modo sono contenta lo stesso perché il gelato che non si mangia non può far venire mal di pancia, come quello che ho mangiato dalla signorina White che poi mi ha fatto male. Forse però ci sono tappeti da zia Polly. Sì, i tappeti ce ne sono. In ogni stanza? In quasi tutte, disse Nancy, incupendosi subito al pensiero di quella stanzetta nel sottotetto dove non c'era l'ombra di un solo tappeto. Oh? Sono proprio contenta, disse Pollyanna. Mi piacciono tanto i tappeti. Noi ne avevamo soltanto due piccoli che erano stati mandati alla missione e uno era macchiato di inchiostro. La signora White aveva anche parecchi quadri, molto carini. Uno aveva tante rose e poi c'erano delle bambine sull'erba, un gattino, agnellini e un leone. Non insieme, naturalmente, gli agnellini, intendo co con il leone. Oh, certo, la Bibbia dice che un giorno saranno insieme, ma non ancora, almeno non quelli raffigurati nei quadri della signora White. E a te i quadri piacciono? Oh, io veramente non saprei, disse Nancy a mezza voce. A me molto. Noi di quadri non ne avevamo, nei pacchi che arrivavano alla missione non ce n'erano, si capisce. Una volta però ne sono arrivati due, ma uno era talmente bello che papà l'ha venduto per comperarmi un paio di scarpe e l'altro era così mal ridotto che quando abbiamo fatto per appenderlo è andato in pezzi. Il vetro si è rotto, voglio dire, e io ho pianto. Adesso però sono contenta di non aver avuto belle cose perché potrò apprezzare di più quelle di zia Polly. Proprio come quando in un pacco si trovano nastri per capelli con colori vivaci dopo i tanti nastri stinti che arrivano di solito. Santo cielo, che casa splendida! Esclamò Pollyanna con entusiasmo, non appena imboccarono il viale d'ingresso. Mentre Timothy scaricava il piccolo baule, Nancy trovò il modo di sussurrargli in un orecchio: Mai più una parola sul progetto di andarcene, Timothy Durgin. Non lascerei questo posto neanche se mi pagassero. A chi lo dici? rispose il ragazzo. Non me ne andrei neppure se mi cacciassero. Adesso con questa bambina per casa sarà divertente, meglio che al cinema. Ah! Divertirsi, divertirsi! Ribatté Nancy indignata. Sarà un bel divertimento, immagino, per questa povera creatura quando si troverà a vivere con quella là. Penso che avrà bisogno di un posto dove andare a rifugiarsi. Bene, sarò io quel posto per lei, caro Timothy. Certo che lo sarò, disse piano ma con decisione, girandosi per accompagnare Pollyanna su per l'ampia scalinata d'ingresso.